Siamo al telefono con l'Orso perché il 30 novembre 2025 torna al Locomotive Club appunto l'Orso. E siamo al telefono con Mattia. Intanto, come stai Mattia? Ciao, grazie mille. Sto bene, sto molto bene. Siamo agli ultimi momenti, le ultime preparazioni, le ultime settimane, ecco, quindi con l'ansia giusta prima di un tour. Ecco, torna l'Orso, la domanda è come mai si era fermato e come mai hai deciso di tornare? Allora, ci eravamo fermati ormai 9 anni fa perché probabilmente in quel momento il nostro ciclo di vita aveva bisogno di una pausa, era al termine, quindi avevamo deciso come band di fermarci. Ci eravamo anche trovati abbastanza bene con questa scelta, diciamo. Poi 2 anni fa c'è stata la tragica scomparsa di Matteo Romagnoli. L'anno dopo, ovvero l'anno scorso, un concerto in sua memoria, un doppio concerto in sua memoria dove abbiamo suonato. Quando abbiamo suonato lì non c'era il nostro chitarrista perché gli stava nascendo un bambino, il suo primo figlio, ci sembrava un tarano circolo della vita, cerchio della vita, e ci piaceva l'idea di suonare ancora una volta con lui e quindi l'idea di tornare assieme, di fare questo breve tour che sono 5 date. Ok, ma è sono festeggiate anche con questo tour i 15 anni della band, ma è un ritorno una tantum o il progetto proseguirà, c'è qualcosa in programma? Questo lo stiamo scoprendo noi strada facendo. Per ora vogliamo concentrarci su queste date qua, perché quando non suoni dopo 10 anni, anche soltanto a imparare a tenere lo strumento senza farti del male, impugnandolo male, è già una vittoria. Quindi quello che succederà dopo, se succederà, arriverà sicuramente con un pensiero dopo queste date. Perfetto, allora dicevamo 5 date, il 30 novembre sarete qui a Bologna al Locomotive Club, quali sono le altre e magari perché avete scelto queste città per il vostro rientro? Allora, saremo il 30 a Bologna al Locomotive, il 2 a Roma al Monk, il 4 a Torino allo Spazio 211, 5 e 6 chiuderemo a Milano all'Arcibellezza. A Bologna il Locomotive ci è sembrata la scelta più logica perché il locale dove abbiamo suonato parecchie volte, in cui c'è parte della storia dell'Orso, ci abbiamo suonato in varie situazioni, quindi ci abbiamo fatto anche l'allestimento del nostro ultimo tour, quindi un po' abbiamo un legame storico. In cui abbiamo fatto bei concerti, ci piaceva l'idea di ripartire da lì. E voi tra l'altro appunto prima citavi Matteo Romagnoli che ricordiamo che è il diciamo fondatore di Garrincha, voi siete tra i capostipiti un po' dell'indie italiano, questo filone che appunto grazie anche a Garrincha che è forse l'etichetta indipendente che più ha spinto per questo tipo di genere musicale, se così vogliamo chiamarlo. Ecco, il periodo d'oro dell'indie forse è un po' passato, secondo te cosa ne rimane, cosa ha lasciato? Diciamo che si è evoluto in altre direzioni che hanno permesso, almeno per un periodo, di avere un certo pop con delle venature più indie. Immagino ad esempio l'esplosione di Calcutta, l'esplosione dei giornalisti all'inizio che arrivavano dallo stesso ambiente, ma anche lo stato sociale con Sanremo. E ha permesso, secondo me, di introdurre nel pop e nel mainstream un linguaggio che arrivava dall'indie, forse più intimo, anche più ingenuo in un certo senso, ma in senso positivo. E penso che sia vero che quella non era un genere, ma quel movimento, come tutti i movimenti, a un certo punto si spegne, ma è rimasto secondo me in tante cose, proprio in un approccio che è entrato nel modo di scrivere le canzoni pop oggi. E anche perché indie poi verrebbe dalla parola indipendente, ma in realtà come genere musicale non è proprio definito, quindi la domanda è l'Orso, come si identifica e se c'è un genere magari che caratterizza appunto la vostra musica? Guarda, noi abbiamo sempre mantenuto, siamo anche fedeli a questa parola che è indie, noi lo siamo stati fino in fondo, nel senso che siamo sempre stati con un indipendente, tra l'altro non siamo mai mossi in altri territori che ci sembravano inadatti. Non è un genere, come giustamente fai notare te, è un po' più una sensazione, un movimento, un modo di pensare anche forse, e probabilmente in un mondo in cui i generi ormai sono sorpassati o si sono ibridati in così tanti modi che è forse anche difficile ogni volta riuscirlo a scandire, a arrivare proprio al frammento. Indie ci piace tantissimo, secondo me è molto chiaro quando dici Orso e dici indie di conseguenza, non c'è modo di uscirne. Anche a proposito di tematiche, no? Le tematiche molto dell'attualità, magari anche di un certo tipo di popolazione, l'Orso è un po' quello che racconta. Ecco, quindi ti chiedo di quello che avete cantato negli anni che vanno dal 2010 al 2016, diciamo, è ancora attuale quello che cantavate o pensi che magari sia musica che adesso ha, non so, meno senso raccontare? erano, secondo me, il vantaggio di molte canzoni dell'Orso, poi naturalmente non tutte, era che raccontavano la storia di un ragazzo di provincia che doveva un po' capire cosa fare in provincia, un po' capire cosa ci faceva in città dopo, che è un tema che non invecchierà mai, forse, magari è invecchiato il modo in cui, in un certo senso, in cui poteva essere raccontato, perché poi sono state anche sulle evoluzioni tecniche nel mondo dell'indie, sono, noi lavoravamo veramente con la preistoria della tecnologia, se ne siamo quanto siamo andati avanti, però a livello testuale di senso penso che ci siano tanti archetipi che continuano a essere validi, a essere presenti, che cantarli oggi abbiano ancora un senso. Ok, allora per ascoltare tutte le canzoni dell'Orso, insomma almeno una parte, appuntamento ricordiamo il 30 novembre al Locomotive Club qui a Bologna. Ti chiedo, per salutarci, se hai magari un invito per chi ci ascolta da casa per il concerto del 30 e una canzone della vostra discografia per salutarci. Allora, l'invito è naturalmente rivolto a tutti e tutte, sarà un bel momento nostalgia, ma come dicevamo, abbiamo scritto magari comunicando anche questa data, a volte un po' di nostalgia fa bene, no? Quando diventa tutto, ma questa è una sera, quindi secondo me è una sana e buona nostalgia dei 20 anni che almeno noi non abbiamo più e che magari per qualcuno del pubblico avrà adesso. E il brano penso che con i chilometri contro sia quello che anche per a livello testuale abbia, sia ancora molto attuale, dato che parla proprio di tregue e spari come apertura e sappiamo il periodo storico in cui stiamo vivendo. Perfetto, grazie mille Mattia, quindi appuntamento per il 30 novembre al Locomotive con l'Orso e ci ascoltiamo adesso con i chilometri contro, grazie mille. Grazie a voi, un abbraccio a tutti.